Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Una volta i materassi, i letti erano molto alti. Venir giù era pericoloso. Sì, soprattutto se cadevi durante la notte. Va bene, sentiamo la domanda di Stefano e poi ne parliamo. Perché quando stiamo per addormentarci a letto in fase di dormiveglia, a volte ci sembra di cadere dal letto o comunque sembra che la gravità abbia cambiato direzione? Grazie. E qualcuno cadrà veramente, magari. Qualcuno cadrà veramente, però questa sensazione di un po' di cadere in un vortice, in un buco nero, io l'ho avuta. Quindi tu adesso sono proprio curiosa di sapere la risposta. E questa volta andiamo dal responsabile del Centro di Medicina del Sonno del Niguarda di Milano. Diamo il benvenuto a Lino Nobili. Salve a tutti. Ecco, allora, cosa ci risponde? Cosa risponde a Stefano? Ma anche io sono curiosa di sapere la risposta. Una cosa che succede molto frequentemente quando ci addormentiamo è una riduzione del tono muscolare. Questa riduzione può essere anche molto, molto rapida, immediata, e allora in questa fase in cui ci stiamo per addormentare, in cui siamo a metà tra il sonno e la veglia, possiamo avere la percezione di questa caduta improvvisa del tono muscolare che ci fa percepire come di cadere nel vuoto. Questa è una cosa fisiologica che può capitare a tutti. Non è una patologia, una malattia, siamo normali, insomma? Assolutamente no. Okay. Quando siamo in deprivazione di sonno, questo fenomeno può accentuarsi ancora di più. Ah, vedi? Quando siamo particolarmente stanchi, allora? Sì, potrebbe succedere. Ecco. Si piomba nel sonno, sì. Dice. Esatto, è proprio il caso di dirlo. E invece approfittiamo della sua esperienza, dottore, perché anche Giulia ci scrive una mail che dice: so che durante il sonno ci si muove molto, c'è molta gente che arriva a muoversi fino a 100 volte durante le 7-8 ore di sonno, ma com'è che non si cade fuori dal letto? Qui una piccola premessa: è vero che di notte ci si muove per quando si fanno diversi cambi di posizione, anche molto numerosi. Quando però si arrivano ad avere molti movimenti, anche arrivando a 100, in genere non è proprio così fisiologico il sonno. Consideriamo che esistono dei disturbi caratterizzati da un'eccessiva movimentazione durante il sonno. Alcuni di questi possono in realtà anche provocare la caduta dal sonno. Ah, quindi in alcuni casi, certo. Sì. Comunque è vero quello che dice, che ci si muove molto e si rimane nel letto senza cadere nella maggior parte dei casi. Questo perché per fortuna il sistema nervoso di un individuo che dorme, anche se il soggetto è incosciente, è in grado ancora di percepire la posizione di un proprio arto nello spazio e quindi di regolamentare la posizione. Se una gamba esce dal letto, comunque viene percepita anche se il soggetto, diciamo, non si sveglia, e quindi può metterla a posto evitando una caduta. Quindi in una condizione normale ci sono dei piccoli spostamenti. Consideri che noi abbiamo 4-5 cicli di sonno, durante ogni ciclo di sonno ci si muove 4-5 volte, quindi sicuramente ci sono molti movimenti. Poi dipende, i movimenti variano assolutamente in funzione dell'età. Un bambino si muove tantissimo, poi a un certo punto il numero di movimenti si riduce, poi può aumentare di nuovo nell'età avanzata, spesso perché ci ha associato più quasi un pseudo disturbo del sonno, quindi del movimento, è necessario più cambiare posizione. Quindi i movimenti sono anche legati a un particolare momento della propria vita, non sono sempre gli stessi. Anche se una cosa molto interessante è che le persone si muovono rispettando un po' una tipologia di movimenti, quindi ognuno ha un suo modo di muoversi durante il letto, più o meno agitato, più o meno numeroso, e fa anche dei movimenti che spesso sono un po' stereotipati. C'è una propria caratteristica anche nel come si si muove durante il sonno. Ognuno c'ha il suo modo. E beh, giustamente. Senta, dottor Novi, mi viene un tremendo interrogativo, glielo espongo. Se il nostro corpo è in grado di capire che siamo su un letto e quindi non si butta giù, mi viene questo dubbio, cioè per esempio in campeggio, che si dorme per terra, dovremmo avere gente che si rotola da tutte le parti del campeggio, perché lì non si cade da nessuna parte. No, beh, ma comunque sia i nostri movimenti sono i movimenti, per fortuna la natura ha fatto in modo che sono cambi di posizione da destra a sinistra. Fisiologicamente nel sonno non si può fare più di tanto. Quando si va oltre a quel tipo di movimenti è perché c'è un disturbo, si chiamano parasonnie, che possono essere del sonno non REM o REM. Allora in quel caso uno può uscire anche dalla tenda e fare il giro di tutto il campeggio non essendo incosciente. È tutta un'altra cosa. I movimenti fisiologici del sonno sono dei movimenti di rotazione del corpo in un bambino può essere anche molto più esteso, può anche andare dalla testa alla parte opposta del letto in un bambino, però certo, in generale. Lei ci dice che il sonnambulismo, per esempio, uno ha altro che muoversi, si alza e va in cucina. Va in giro, può uscire, può fare quello che vuole, purtroppo, nel sonnambulismo. Ecco. una brutta storia. Quindi via, no, se non si è brutta, cade... è una cosa fisiologica anche quella, ma può comportare delle conseguenze anche negative. Certo. Certo. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci. Vi ronza in testa un quesito, una domanda che, alla quale proprio non riuscite a rispondere? Va bene, allora scriveteci elementare@radio24.it perché cerchiamo insomma di risolvere tutto. Ci scrive per esempio Samantha Lamanta da Filicudi: cucino spesso delle polpette di tirannosauro, ne faccio un bel po' che poi consumo nei mesi successivi. È vero che si conservano meglio in un congelatore della Rex? Elementare Watson.